Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, un nuovo tipo di cemento cellulare, quello che spesso chiamiamo gas beton, più economico e sostenibile dell'attuale, che fa uso, pensate un po', di lievito di birra e acqua ossigenata nella sua ricetta. Lo hanno messo a punto i ricercatori del centro di ricerche della Trisaia in Basilicata, dell'Enea, dove andiamo subito per parlare con uno degli ideatori, Piero De Fazio, della divisione bioenergia, bioraffinerie e chimica verde, appunto. Dell'Enea, buonasera De Fazio. Buonasera a lei, una precisazione, il gruppo di lavoro è ampio ovviamente, certo. Ed è sia del dipartimento che lei ha citato, ma anche dei colleghi del centro di ricerca Casaccia in Lazio, vicino Roma, che hanno collaborato e ideato anche questa attività. Allora, cominciamo da una cosa, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che cos'è il cemento cellulare o gas beton, come spesso viene chiamato, e quali sono le sue proprietà. Allora, parliamo di calcestruzzi aerati autoclavati, cioè calcestruzzi molto leggeri, con densità basse, in genere si varia tra 300 e 800 kg in metro cubo, e questa densità bassa è dovuta alla presenza all'interno della massa del calcestruzzo stesso di un sistema di vuoti, essenzialmente di bolle d'aria. Perfetto. Ecco, un po' come la pietra pomice, diciamo, esatto, per ricordare. Sì, no? Per capirci è simile a quella la struttura. Questi vuoti che danno appunto al materiale, che conferiscono al materiale le sue peculiarità, cioè isolamento termico e isolamento acustico soprattutto. E anche una certa facilità di lavorazione, no? Questi blocchi di cemento tagliano con una sega normalissima, per capirsi. Si tagliano con una sega normale e tra l'altro sono prodotti proprio questi blocchi, cioè l'output del processo produttivo è proprio costituito da questi blocchi che poi vanno in lavorazione e vanno sul cantiere. Perfetto, dove vengono utilizzati? Sono dei mattoni di fatto, in questa sorta di schiuma di cemento, so che non è il termine giusto, ma insomma per rendere l'idea. Ecco, normalmente come si produce il gas beton? Allora, si produce in maniera abbastanza semplice, il fatto fondamentale è creare questi vuoti, e questi vuoti si realizzano nella concezione tradizionale, nella formula tradizionale, utilizzando della pasta di alluminio insieme a cemento, acqua, calce e gesso, parliamo proprio della ricetta base, sì. Poi pasta di alluminio che reagisce con la calce in presenza di acqua libera e libera idrogeno gassoso. Perfetto. Questo idrogeno gassoso determina la lievitazione della massa. Perfetto. Che cresce quindi in altezza, e poi questo processo dura circa 2 ore, dopodiché si ha l'equilibrio tra la presa della massa stessa e l'effetto, diciamo, lievitante. Esattamente come una torta, no? Che sì, si gonfia per il calore, quando comincia a solidificare l'impasto si ferma la lievitazione. Qui succede esattamente la stessa cosa. Ecco, veniamo a questo punto alle novità che voi avete introdotto nel processo. Sì, noi in pratica cosa abbiamo pensato? Poiché la pasta di alluminio ha tutta una serie di problematiche legate al fatto che c'è il pericolo di scoppio, c'è una sostenibilità ambientale che è un problema per quanto riguarda questo materiale, abbiamo pensato di utilizzare come mezzo aerante un mezzo di origine organica, e abbiamo pensato al lievito di birra effettivamente, partendo proprio dal concetto che questa massa lievita, e il lievito di birra che funge da catalizzatore di reazioni che portano alla dissociazione dell'acqua ossigenata, cioè unendo acqua ossigenata e lievito di birra si innescono una serie di reazioni la cui conclusione è la formazione di bolle di ossigeno, questa volta ossigeno che determina la crescita della massa, sì, la lievitazione della massa. Perfetto. E il processo è un po' più rapido rispetto al processo tradizionale e porta poi allo stesso risultato essenzialmente. Senta, in pratica avete sostituito la lievitazione chimica con la lievitazione naturale, possiamo, no? Rimanendo al nostro esempio della torta. Diciamo di sì, è una torta a tutti gli effetti, ecco. Ecco, la ricetta del cemento cellulare era ferma dal 1923, quindi quasi da 100 anni, quindi insomma un'innovazione assolutamente significativa. Ecco, intanto abbiamo capito che si sostituisce questa polvere o pasta d'alluminio che è altamente infiammabile. Se date fuoco della polvere d'alluminio non la spegnete più, ecco, questo lo dico agli ascoltatori. E quindi c'è un elemento intanto di minor pericolo, di maggiore rapidità, ci ha spiegato. Anche i costi sono più bassi? Anche i costi sono più bassi, considerando che non utilizziamo in questo nuovo processo alcuni componenti invece indispensabili nel processo tradizionale. Parlavo prima della calce necessaria per la reazione con la pasta di alluminio. In questo caso, non essendoci più questo agente aerante, la calce non è più a sua volta necessaria. Limitandosi la quantità di calce, mi scusi ancora la ripetizione, necessaria per il prodotto finale a quella quantità che è presente nel cemento Portland essenzialmente. Quindi ci sono meno reagenti, diciamo meno componenti e un utilizzo più sicuro di questi componenti. Complessivamente viene fuori che questo cemento cellulare costerebbe meno di quello prodotto attualmente, verrebbe prodotto più rapidamente. Quindi un'innovazione che si direbbe assolutamente adatta a finire sul mercato. Ecco, da questo punto di vista a che punto siete? Allora, noi al momento siamo a livello, come dire, di laboratorio. Abbiamo sperimentato l'agente aerante e la riuscita del processo che porta alla formazione delle bolle, quindi alla crescita della malta cementizia liquida, fluida. Ecco. Dobbiamo passare a livello industriale, abbiamo una serie di contatti con una serie di utilizzatori finali, quindi con una serie di industrie sia a livello, diciamo, del meridione d'Italia, sia a livello anche nazionale. Ci hanno contattato recentemente anche dall'estero per alcune applicazioni diciamo del cemento aerato autoclavato, di questo nuovo bio cemento aerato autoclavato in Africa, per esempio. E quindi queste sono le principali, come dire, i principali sviluppi potenziali che questo materiale ha. C'è un brevetto, giusto? C'è un brevetto, certo, che in qualche maniera ci tutela e che ha acceso l'interesse di tutta una serie di operatori, e vediamo adesso come proseguire. Il prossimo passo è il passaggio, come dicevo, a livello industriale, che non è semplice perché ci sono una serie di adattamenti che bisogna fare. In un'ipotetica scala di sviluppo, utilizzando la scala, diciamo, europea, noi siamo a TRL4, quindi siamo a sviluppo in laboratorio, dobbiamo passare al TRL almeno 7 per poter poi passare alla commercializzazione. Va bene, grazie Piero De Fazio, e teneteci aggiornati su come va a finire. Va bene, grazie a voi. È tutto anche per questa sera. Prima di lasciarci vi ricordo che potete seguirci anche via podcast, naturalmente dalle pagine del sito di Radio 24, e che potete scriverci a smartcity@radio24.it. Da Maurizio Melis, buona serata a voi tutti.